Francesco Pazienza non sarà sentito dalla Corte d'Assise di Bologna che sta giudicando l'ex NAR Gilberto Cavallini sotto processo perché accusato di concorso nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Al pari non saranno acquisiti i documenti inviati dall'ex consulente del Sismi già condannato a 10 anni di reclusione per i depistaggi alle indagini sulla bomba di 38 anni fa. Lo ha deciso il presidente della Corte, Michele Leoni, secondo cui la sua presenza sarebbe stata inutile se non controproducente o addirittura fuorviante anche in considerazione dei suoi precedenti specifici. L'udienza del 20 giugno si è aperta così e ha chiuso la vicenda Pazienza, il quale aveva insistito per 3 settimane affinché fosse convocato a Bologna. In aula, invece, si è proseguito con l'esame di Valerio Fioravanti, il neofascista dei NAT, condannato in via definitiva per la strage del 1980 con la moglie Francesca Mambro e con l'allora minorenne Luigi Ciavardini. Fioravanti, libero dal 2009 nonostante gli 8 ergastoli, ha rischiato, come già accaduto per Ciavardini, una denuncia per reticenza nel momento in cui le parti civili hanno iniziato con le loro domande. È successo quando l'avvocato Andrea Speranzoni gli ha chiesto chi avesse partecipato con lui a un assalto a suon di tritolo a un circolo culturale romano. È un episodio minore ampiamente prescritto, ha risposto Fioravanti, e citando l'epoca attuale dei social media ha rifiutato di dire chi fossero i suoi complici perché i loro nomi avrebbero rischiato di rimbalzare in rete. Ne è disceso un battibecco Fioravanti alla fine, a fronte della domanda riproposta per l'ennesima volta, è sbottato affermando: allora le dico che è Alessandro Alibrandi, il quale, tuttavia, essendo stato ucciso in un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine il 5 dicembre 1981, non può più confermare né smentire. Dopodiché sono stati toccati i rapporti con la criminalità comune che faceva base a Torpignattara, Civitavecchia e a Tivoli. Da Civitavecchia sarebbero arrivate richieste a Fioravanti di armi e munizioni, tra cui proiettili di bazooka che poi non sarebbero stati recuperati. Dagli ambienti della delinquenza di Tivoli, invece, discesero conoscenze importanti, come quelle con il neofascista Sergio Calore, che poi è divenuto collaboratore di giustizia e che è stato massacrato nel 2010 da persone mai individuate. La conoscenza frutto dei rapporti con i comuni di Tivoli fu quella con l'attuale imputato Gilberto Cavallini, che, ha raccontato Fioravanti, tra i suoi propositi aveva quello di sequestrare i figli di Luciano Benetton, fondatore dell'azienda tessile. Il piano sarebbe stato in preparazione quando Fioravanti e Francesca Mambro ne vennero a conoscenza, ha detto il test, e si diedero da fare perché Cavallini desistesse. Lo scopo del sequestro era l'estorsione all'imprenditore di Ponzano Veneto e i soldi, gli assicurarono i NAR, si potevano trovare in altri modi, per esempio commettendo rapine. Così il 19 dicembre 1980 puntarono sulla gioielleria Giraldo di Treviso, che portò comunque a un sequestro. Fu quello dei titolari dell'esercizio commerciale e dei 2 figli che allora avevano meno di 10 anni. Ancora a proposito della rapina di fine 1980, a Fioravanti è stata fatta notare un'altra coincidenza. Del collegio trevigiano che giudicò l'ex NAR per il sequestro e l'assalto ai gioiellieri c'era Giancarlo Stiz, il magistrato che a inizio anni 70 fu il primo a puntare sulla pista nera dopo la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 69 e fece arrestare Giovanni Ventura e Franco Freda ai vertici di Ordine Nuovo. Secondo Sergio Calore e poi anche secondo un altro neofascista, Luigi Presidio Vettore, Cavallini avrebbe organizzato un attentato contro Stiz da far compiere anche a Fioravanti. Quest'ultimo tuttavia disconosce il piano omicida che poi non fu attuato e ha sostenuto di non aver saputo a lungo chi fosse Stiz, non ricordando nemmeno la sua presenza nel collegio giudicante da cui poi uscì, astenendosi dal proseguire in quel processo. Nel corso della sua testimonianza sono stati molteplici i punti contestati a Fioravanti per la difformità tra quello che dice oggi e ciò che sostenne in passato, a partire dal 1981, l'anno in cui venne arrestato. I verbali sono il proseguimento di una guerra, ha sostenuto il test. In tale logica ha spiegato di aver, soprattutto i primi tempi, affermato circostanze parziali se non false per allontanare le indagini dai suoi complici ancora in libertà. Si comportò così nonostante, ha detto, non fossi il capo né il leader dei NAR, ho fatto quello che ritenevo di dover fare. E a proposito della presunta guerra portata avanti dai nuclei armati rivoluzionari, ha considerato: ci sono stati aspetti positivi nel processo per la strage di Bologna. Il mandato di cattura spiegato a carico dei neofascisti dopo la bomba riguardò solo Francesca Mambro e non altri militanti, e le informazioni erano vecchie di quasi un anno. Questo significava che non c'erano infiltrati nel nostro gruppo. Gli inquirenti ragionavano con schemi vecchi sulla base di vecchie schedature. Insomma, è tornato a calcare sulla leva dei guerriglieri solitari e compatti che non avevano rapporti con il mondo delle versioni di estrema destra tradizionale, non con Mario Tuti, accusato e poi assolto per la strage dell'Italicus del 4 agosto 74, con cui tuttavia Fioravanti intratteneva contatti epistolari durante la detenzione, né con Concutelli, l'assassino del magistrato Mario Amato, con cui sostiene di aver avuto cattivi rapporti. Questo nonostante il più volte raccontato progetto di farlo evadere dal carcere. E ancora, i rapporti con esponenti della banda della Magliana risalirebbero solo agli anni della detenzione, mentre l'unico che aveva avuto contatti con alcuni suoi esponenti, nello specifico Danilo Abbruciati ed Ernesto Diotallevi, sarebbe sarebbe stato solo Alibrandi, sempre lo stesso terrorista ucciso a fine 81.